ci accusa di opportunismo dimentica che abbiamo soltanto fatto il nostro lavoro, il lavoro che facciamo ogni settimana. È un commento dell'attualità. Noi cosa facciamo? Siamo un giornale di attualità, siamo un settimanale satirico, politico, e commentiamo l'attualità. Cosa facciamo? Parliamo d'altro? Mi pare che ognuno è consapevole di questo ricatto da persone che sono violente, no? Che minacciano, anche ammazzano, no? Buttano fuoco, fanno attentati. Cosa facciamo? Tacciamo oppure continuiamo come facciamo sempre, cioè il nostro lavoro? Non si deve cedere alla violenza. Il ministro dell'educazione francese ha ricordato ieri in radio, no, che la libertà d'espressione è una cosa che non si può discutere, no? E che l'autocensura è l'inizio del totalitarismo. In Francia il cittadino non si definisce dalla religione, no? Questi direttori di coscienza, questi capi religiosi che dicono ai musulmani francesi vi definite soltanto con la religione è una bugia, no? E la maggiorità dei musulmani in Francia ne hanno coscienza di questo. Però sono come tutti, ci sono quelli che ci sostengono, no? E c'è la maggiorità che ha paura.